condamné. On ne veille pas toucher le fond, à part creuser, tu veux faire quoi? Massacre, pousse le son, rangez vos rêves. Benvenuti a questa nuova puntata del programma. Riprende questa rubrica radio dopo una lunga pausa e riprende parlando dei recenti fatti avvenuti nella banlieue francese. Mi è naturale cercare di comprendere se sia davvero possibile pensare di integrare popoli e culture diverse fra loro. C'è anche da sottolineare che soprattutto in Francia non si può né si dovrebbe parlare di extracomunitari, perché di fatto ciò che è avvenuto nelle periferie e opera di francesi e neanche tutti di origini nordafricane o medio orientali. Ora che il pericolo delle rivolte più pesanti sembra essere cessato, in molti si sono posti un problema: ma questi ragazzi, è bene chiamarli rivoltosi, rivoluzionari, oppure sono solo dei teppisti? Perché una rivolta spesso è organizzata, ha un capo, ha delle mire precise. In questo caso invece sembravano solo esternare un disagio, e lo esternavano con la violenza, per giunta indiscriminata. L'abbiamo potuto vedere tutti, la troupe di Sky TG24, che momenti ha passato durante le interviste. Ma non è giusto chiudere gli occhi su un sistema capace di far crescere, accrescere, ed emergere così tanto odio e tanta violenza. Come spesso succede a causa delle informazioni ignoranti o strumentali, in molti erroneamente hanno subito puntato il dito sulla parola immigrato. In effetti non era questa la parola da additare, o il soggetto da additare, ma forse un'altra parola avrebbe avuto più significato, ed era integrato. In ogni caso il problema non è l'immigrazione, perché, come già ho detto prima, questi disagi sono provocati da francesi al 100%, solo originari del Nord Africa, diciamo, o dei paesi arabi. E miscelati fra loro, probabilmente, vi sono anche tanti francesi che vivono ai margini della società ed in condizioni di degrado, tale da rispondere con la violenza, unendosi al caos generale. È vero sicuramente che molte leggi per l'integrazione sono fallite miseramente, tuttavia non è affatto detto che debbano fallire anche in Italia. Ma il caso parigino non deve trarre in inganno, perché se da una parte conviene prendere in esame modelli di convivenza pacifica possibile, dall'altra parte si dovrebbe cercare di comprendere e far comprendere all'opinione pubblica e ai politici soprattutto che non è un problema solo francese, perché non si tratta di guerre religiose o culturali, ma di degrado, di violenza e di povertà. E quindi storie che riguardano il mondo intero, non solo un paese oppure una città. Ovvio che oltre la comprensione ci debbano essere anche dei punti fermi, da cui difficilmente e giustamente non si può fuggire. E uno fra tutti è il rispetto della legalità. Italiani o stranieri, cristiani o musulmani, atei, pensionati, poveri o ricchi, insomma tutti, sono tenuti a rispettare le leggi del paese in cui si trovano. Non lo dico io, ma lo dicono le norme su norme che esistono in ogni paese. Ciò non vuol dire restringere le libertà personali o le libertà di culto, né limitare chi è meno fortunato e cerca di urlare il proprio dolore. Come sempre, l'equilibrio dovrebbe aiutare chi governa per riuscire a ristabilire ordine ed uguaglianza. Questa in ogni caso è una questione politica molto grave, è molto importante ed è difficile da affrontare, e non basta la propaganda politica. Bisogna badare ai fatti, alla concretezza, che almeno nel nostro caso in Italia destra e sinistra non possono assolutamente dare in questo momento. Recentemente avevo già parlato di queste problematiche e avevo già detto che ci vorrebbe una politica nuova, una politica più matura, più onesta, più ingegnosa. Finirei questa puntata lunga con un interrogativo. Se la violenza è sempre non giustificabile, ma quanto fa la politica attuale per scongiurare fatti gravi come quelli di Parigi? Finisce qui la puntata, si riparlerà e si discuterà ancora di questo problema. Nilo vi saluta e buon ascolto.